Ecco, allora a me il compito di dare un attimo un'introduzione a questa serata particolare che era stata pensata per il 21 di marzo, la giornata mondiale della poesia, coincidenza con la primavera, con la festa dell'acqua, insomma con tante ricorrenze. Bisognerebbe studiarsi il calendario per bene, perché oltre ai santi ci sono una marea di giornate particolari da inserire nella nostra vita quotidiana, e per fortuna che ci sono, ecco, per fortuna c'è la poesia ancora che ci salva, la cultura, le biblioteche, lasciatemelo dire, ma anche la musica. E questa sera abbiamo con noi Elisa Venturin, che ho visto qua, eccola, e Barbara Gramegna e Maiko Metto, che ci accompagneranno con delle letture, con la musica, con la poesia. E ci siamo ispirati, ma poi Barbara ci aiuterà a scoprire piano a mano quello che è l'argomento della serata. Ci siamo ispirati anche un po' a quello che è il discorso della sostenibilità, del poter vivere bene e degli obiettivi dell'Agenda 2030, che è un po' un filo conduttore sotterraneo che a volte emerge in maniera evidente, a volte forse meno, di tutte le nostre attività per quest'anno, ma anche per il futuro. Ecco, un futuro che è difficile da prevedere, è un futuro che non riusciamo bene a individuare, abbiamo perso un po' tutte le coordinate che avevamo una volta, ma per fortuna possiamo ancora approfondire e crearci un percorso attraverso la lettura, come dicevo, il confronto, la musica, la poesia e persone come questi artisti di questa sera che ci accompagneranno appunto nella serata, che ha un titolo molto particolare: Aprire le zolle e scatenare tempesta. Con questo io vi auguro una piacevole serata, vi invito a venirci a trovare, soprattutto anche nelle nostre serate dedicate alla lettura e ai gruppi di lettura, che ci troveremo il 6 aprile, il 13 aprile sempre in biblioteca sotto e il 4 aprile invece con la Associazione Scrittori di Bolzano. Come vedete, non perdiamo più i contatti con voi, e ancora grazie di essere qui con noi, ma soprattutto grazie ai nostri ospiti, a Maiko Metto, Barbara Gramegna ed Elisa Venturini. Grazie alla direttrice della biblioteca Claudia Augusta, Valeria Trevisan, grazie per l'ospitalità. E grazie a voi naturalmente che siete presenti. Come diceva Valeria, il nostro comune denominatore della serata è stato ispirato da un verso di Alda Merini. Il giornale oggi erroneamente ha riportato il fatto che si tratti di un reading su Alda Merini, in realtà è stato ispirato da un verso e naturalmente anche dalla sua figura e dalla sua storia. In realtà quello che vi proponiamo è un viaggio nel tempo e nello spazio e alla ricerca di donne che hanno aperto zolle e scatenato tempeste a loro modo, nei loro ambiti professionali, di azione e personali, anche a volte nella nostra provincia, perché ci ricordiamo che siamo ospitati da una biblioteca di ispirazione provinciale, ma uscendo anche dai nostri confini, donne che sono state interpreti di storie particolari in Italia e anche nel resto del mondo. Monache, scrittrici, musiciste, ardimentose donne del passato remoto e recente, dal globale al locale, fra canti angelici, blues del diavolo, con incursioni di languide e milonghe. Non vi svelo subito i nomi, perché sennò dopo cominciate a fare associazioni e le associazioni, diciamo, che vincolano un po' la libertà del pensiero. Nata il 21 a primavera di Alda Merini, quindi la nostra ispiratrice. Sono nata il 21 a primavera, ma non sapevo che nascere folle, aprire le zolle, potesse scatenar tempesta. Così Proserpina lieve vede piovere sulle erbe, sui grossi frumenti gentili, e piange sempre la sera. Forse è la sua preghiera. Del monastero di Sonnenburg al cardinale arcivescovo Cusano. Il convento ospitava a quel tempo per lo più giovani nobili prive di vocazione, destinate alla vita conventuale da famiglie interessate per lo più a non frazionare eccessivamente il patrimonio. La dote che le famiglie portavano al convento era comunque inferiore a quella che avrebbero dovuto scucire per un qualsiasi marito. La clausura imposta però non garantiva di per sé nulla di certo, tanto meno a Sonnenburg. Comunque lì, infatti, il regime era piuttosto allegrotto. La badessa, in genere di nobile discendenza, era quasi sempre eletta a vita, anche se in quanto donna non aveva alcun potere di giurisdizione spirituale. Esercitava però sul monastero e sulle sue dipendenze un'autorità pressoché assoluta, la potestas dominativa, curandone l'amministrazione e provvedendo alla conservazione dei suoi beni temporali, nonché garantendo il rispetto della regola, gli statuti dell'ordine e la buona condotta delle monache. Ecco, Verena von Stuben non pareva averne assolutamente le caratteristiche e nemmeno l'intenzione, e fu così che fece arrabbiare il cardinale Cusano, che tentò di tutto per costringerla al rispetto della regola benedettina, che prevedeva, tra le varie altre cose, la triade silenzio, umiltà e obbedienza. La vicenda si prestò a gustose narrazioni, anche un po' boccaccesche, come quella che sostiene che durante una visita del Cusano a Sonnenburg, per riformare il monastero, appunto, la maliziosa badessa avesse fatto servire in tavola da una giovane e bella novizia carne di coniglio, che era allora considerata un afrodisiaco. Il vescovo, consapevole, si rifiutò di mangiarla ed allora Verena la fece riportare in cucina, ove fu tritata e trasformata in polpette che il Cusano, senza accorgersi, si pappò di gran gusto. Ovviamente però questo non risolse il problema e quindi non si fece certo confondere dai manicaretti delle monache. Impedì alla gente del posto di pagare le decime al monastero, sperando così di portare le monachelle alla fame. Visto che la legge ecclesiastica prevedeva che non si dovesse obbedienza a una persona scomunicata, ma la legge tirolese invece permetteva la riscossione dei tributi con la forza, le suore ribelli assoldarono un gruppo di 86 mercenari che il 5 aprile 1458 imperversarono per i paesi attorno al monastero, compiendo ogni scelleratezza per rimpinguare i magazzini di Sonnenburg. Come risposta, i contadini si organizzarono e in grande fretta riunirono più di 400 uomini e prepararono una trappola lungo una strada angusta. Vi fu un massacro. Gli uomini del vescovo assediarono il monastero, costringendo le 7 monache a fuggire nei boschi e a rifugiarsi al mattino in un castello di proprietà del padre di una di queste. Questo evento fu ricordato come la battaglia di Marebbe e di Zolle se ne persero davvero tante. Thank you. è tosta questa monaca qua. Questa monaca qui, sì. Questa... Ma è una di quelle che piacciono a noi, no? Poi alla fine. Sì, quelle toste che poi si smonacano, non so come dire, sì. Una roba del si genere. Si smonacano. Ne sapevo un'altra di smo, ma fa lo stesso. Eh? Ne sapevo un'altra di smo, ma fa lo stesso. No, no, ma sai, bisogna contenersi. Tu pensale, tanto le capiscono, non è che... Il pane angelico, quello da guadagnarsi con la musica, e ci porta un'altra donna, un'altra situazione, un altro luogo, un'altra epoca. Paquita Bernardo, o della prima bandoneoista d'Argentina, una dissodatrice vera di zolle per la Buenos Aires degli anni 20 del Novecento. A 21 anni era riuscita ad ottenere un vero ingaggio con il suo sesteto chiamato Orchestra Paquita, tra cui figuravano i giovanissimi Osvaldo Pugliese al piano ed Emilio Vardaro al violino. Per chi è amante della musica tanghera, delle milonghe, sono pietre miliari questi due musicisti. E quindi siamo in una Buenos Aires, in una pista da ballo, con questa storia un po' vera, un po' sognata, di una sorellanza fra due giovani donne che ho pensato vicine e legate da sogni comuni, destino diverso, due storie che si incrociano, quella reale di Paquita e quella verosimile di Miluna. Una giovane donna molto attraente, ma povera, come in ogni favola. La sua passione, il ballo, era anche il suo tormento perché le consentiva sì di vivere, ma la lata, un gettone con cui a quel tempo gli uomini pagavano le ragazze per ballare, rappresentava per lei una umiliazione e una schiavitù da cui non si poteva né si sapeva liberare. Nel povero e un po' sordido quartiere dove viveva, la conoscevano tutti per il suo visino, per la leggerezza con cui si muoveva. Miluna, voglio immaginarla ballare ogni sera al Caffè Dominguez, al numero 1537 dell'Avenida Corrientes di Buenos Aires. Qui arrivava trafelata dopo aver trascorso la giornata ad aiutare la sua povera famiglia, ma non appena si intonavano le prime note e guardava in direzione dell'orchestra, trovava negli occhi di Paquita la forza per cominciare la serata. Paquita Bernardo, nata Francisca Cruz Bernardo, era una coetanea di Miluna, ma lei, a differenza sua, era riuscita a uscire dalle convenzioni che l'avrebbero voluta forse vedere in pista, come Miluna o come le varie Rosita, Mercedes, molte altre, a tenere compagnia degli sconosciuti che ogni sera si ammassavano al Dominguez e pagavano per la compagnia. Paquita veniva sì pagata, ma per suonare il bandoneon. Miluna e Paquita, due giovani donne appassionate di vita, di baile, di musica, a Buenos Aires nel 1921. Esta es la historia de Miluna hace mucho tiempo en Buenos Aires. Una composizione di Michele Ometto, alla voce Elisa Venturin, las letras sono mia. Thank you. Possiamo dire a Michele che la può suonare ancora? Se la puoi diffondere, Michele. Negli stessi anni, in America del Nord, si faceva invece largo Dorothy Parker, una delle lingue più taglienti e acute del XX secolo, capace di fustigare con cinismo i vizi, le debolezze, le virtù anche della società americana. Attraversò gli anni del proibizionismo accompagnata dal suo amato scotch e bevendo tutto ciò che la New York dell'epoca sotto banco le potesse offrire. Scoprì che se beveva scotch a piccole dosi per tutto il corso della giornata, il suo umore era decisamente più temperato. Io ho provato col prosecco ma non funziona. Ecco perché nessuno la vide mai ubriaca, ma nessuno può nemmeno affermare di averla vista del tutto sobria. Nel 1917, dopo aver già lavorato per Vogue, divenne critico teatrale per Vanity Fair, dando sfogo al suo lato critico e cinico, non avendo clemenza per nessuno. Nel 1927 venne pubblicato il suo primo libro, un successo editoriale davvero eclatante, soprattutto perché si trattava di un testo di sole poesie. Un assaggio del personaggio, anzi della personaggia. I rasoi fanno male, i fiumi sono umidi, l'acido lascia tracce, le pillole danno i crampi, le pistole sono illegali, i cappi si rompono, il gas ha una puzza tremenda, tanto vale vivere. Sentimenti estremi e quasi diabolici, come il blues di Bessie Smith. Yeah. una serata che vorremmo preparare sarà quella delle donne del blues, se Michele ci sta, perché fa il difficile sempre su queste cose. Donne e blues? Va bene. Credevo solo donne andasse anche bene, ma donne e blues ancora no. Siete testimoni. Registrato. Dagli anni 20 del continente americano a quelli dell'Alto Adige Sud Tirol, perché non sia mai che dimentichiamo un'edizione. L'ombelico del mondo, sì, sempre. Johanna Blum, la conoscete? O della campionessa di tuffi, pioniera delle scuole musicali. Johanna era solita sguazzare da giovinetta nel primo impianto semibalneare di Bolzano e allenarsi alla Guglielmo Schwimmschule, un appezzamento di terreno di proprietà della famiglia Gugler all'altezza di quello che più o meno sarebbe diventato poi il Lido di Bolzano. Abitudine vista però di cattivo occhio dalla morigerata società del tempo e soprattutto dal suo catechista a scuola, che identificò il luogo come occasione di pericolosa promiscuità fra ragazze e ragazzi. Ma Johanna, quale apritrice di zolle, se ne faceva un baffo. La sua attrazione per la musica cominciò anche prima di quella per l'acqua, ma non poté subito trovare sfogo. Ci vollero alcune circostanze familiari ad avvicinarla ai suoni e agli strumenti. Una tromba, trofeo della Prima Guerra Mondiale, in una casa di zia Giulia a Graz prima, e una chitarra di un cugino della mamma poi. Nel 1930 il vero battesimo, con l'ingresso al liceo musicale Gioacchino Rossini. Siamo in piena italianizzazione. Che frequentò contemporaneamente al liceo classico Carducci. Durante la guerra Johanna e la mamma optarono però per l'emigrazione e quindi un gran periodo della sua vita lo trascorse in Austria. Ma al rientro in Alto Adige nel 1944 Johanna Blum fu incaricata di dar vita a Bressanone ad una scuola musicale. Così, lo stesso anno iniziò a tenere i primi corsi. Alla fine della guerra, terminata l'occupazione tedesca e confermata l'appartenenza del Südtirol all'Italia, Johanna Blum si ritrovò in una specie di limbo a causa di un problema di cittadinanza, quale rioptante. Vedete, il tema della cittadinanza ritorna sempre. Ma poi la sua carriera e vita anche è stata dedicata completamente alla musica e durò fino alla sua morte. In Klaus nicht gedacht, doch jetzt lustig zu, außer nicht es bin mir. Und wenn es nicht Musak di Johanna Blum, Parole anche, è un hit tuttora, non ci crederete, però possiamo dimostrarlo. E ha scritto tantissimo, soprattutto per coro, quindi è una personalità in questo senso, non è nemmeno morta tantissimo tempo fa. Trovate anche i suoi libri, la sua biografia. Quindi tante apritrici di zolle in vari ambiti. Adesso andiamo un po' più avanti negli anni del Novecento e ci avviciniamo agli anni Sessanta, che ispirano sicuramente tantissimo per varie ragioni. Qui abbiamo una donna un po' speciale anche lei, di nome Corita Kent, o dell'arte, e qui Paola di Orenspitzen, come veicolo di messaggi di amore, speranza e giustizia in un mondo che stava cambiando. Intorno alla metà degli anni Sessanta, Corita era infatti una celebrità, con mostre a Los Angeles, New York, in Connecticut. Aveva contatti con John Cage, Buckminster Fuller, Hitchcock, Henry Miller, che invitava regolarmente alle sue lezioni, mentre lei stessa teneva conferenze sui suoi metodi di insegnamento innovativi. Nel 1967 Harper's Bazaar la annovera tra le 100 donne americane di successo. Qualche mese dopo è sulla copertina di Newsweek, che titola The Nun Going Modern. Perché Corita è una di quelle di cui sopra. Era una suora, ma anche un'artista, ma anche moderna. Scrivevano di lei stentando quasi a credere che tutte le tre cose potessero coesistere in una sola persona. Infatti, quando all'età di 18 anni Frances Elizabeth Kent entrò nell'ordine religioso del Cuore Immacolato di Maria, nessuno, eccetto l'amica del tempo, sembrò sorpreso. Ma le amiche ne sanno sempre di più, dei familiari. Era a quell'epoca il 1936 e i Kent, che da diversi anni vivevano a Los Angeles, erano una tipica famiglia cattolica. Sister Mary Corita, come da quel momento si farà chiamare, era la penultima di 6 figli, di cui 2 indossavano già la tonaca. Lei dirà di aver sempre voluto essere una suora, ma non si sorpresero neppure quando 32 anni dopo, nel 1968, Corita abbandonò la vita monacale e si stabilì a Boston. L'opposizione dell'arcidiocesi di Los Angeles all'impulso progressista del Concilio Vaticano II era ostinata e, come lei, altre suore lasciarono l'ordine. Quello che nessuno si aspettava era però che Corita potesse diventare così famosa. La carica dirompente dei suoi messaggi artistici ha animato anche i movimenti della Beat Generation, della contestazione giovanile, la beata generazione. Figli lucidi di una generazione sconfitta, ma non rassegnata. Rabbia è utopia. Sogni grandi per paesi piccoli, per uomini piccoli. Silenzio, i poeti non fanno prigionieri. Flying through our cavalca steccati, linguistici ed identitari, tedesca fra gli italiani, italiana fra i tedeschi, traduttrice, poeta, editor. La sua opera è esigua, ma riconosciuta come parte della migliore letteratura in lingua tedesca dell'epoca contemporanea. Si è spostata fra Italia, Germania, Svizzera, dalla sua Merano. Ha avuto uno sguardo particolare sulla dimensione matriarcale dell'epopea ladina dei Fanes, a cui dedica Die Frauen aus Fanes. Anita è mancata però troppo giovane, a 49 anni nel 1997, e il suo nome resta maggiormente legato alla sua prima opera, Hagazussa, di Zaunreiterin. Una sorta di strega dei giorni nostri, una donna che oscilla fra mondi e dimensioni diverse, fra la parte emotiva, quella razionale. Una creatura ondivaga, capace di immaginazione, di aspettativa, di guardarsi da fuori, di sperare, ma anche di disperarsi. Die Zaunreiterin, tutte le donne che abbiamo conosciuto stasera, che hanno aperto zolle, scatenato tempeste da secoli e per secoli ancora lo faranno. Abbiamo aperto con Alda Merini e concludiamo con Alda Merini, che nella circolarità ci porta la traccia della primavera, della poesia e delle donne ardimentose. Lascio a te queste impronte sulla terra, tenere dolci, che si possa dire: qui è passata una gemma e una tempesta, una donna che è avida di dire, disse cose notturne e delicate, una donna che non fu mai amata. Qui passò forse una furiosa bestia, avida sete, che dette tempesta alla terra, a ogni clima, al firmamento, ma qui passò soltanto il mio tormento. Oh, Design, grazie. Buona serata.